America. I just checked my following, listen. You motherfuckers owe me. Buonasera, sono le 18:29, straordinariamente abbiamo iniziato puntuali, anzi quel minuto di anticipo. Siamo le Ribelli e oggi affronteremo il discorso del hate speech, il discorso d'odio. Qui in radio non sono da sola, fanno un po' le timide, ma chi siamo, c'è qua? Siamo timidi. Ciao a tutti! Ciao. Presentatevi! Io sono Tecla, mi conoscete già probabilmente, ma sono fisicamente in radio. Finalmente! Cioè, è troppo bello, sono troppo emozionata. E poi c'è Andrea, per la prima volta in radio. E piacere a tutti. Beh, io direi che adesso lanciamo una canzone e poi surprise. Prima bisogna ricordare i nostri canali. Perché così possiamo connetterci anche in altri modi con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Per fortuna c'è Giulia qui accanto a me che mi può bacchettare. Buonasera. Anche perché non siamo solo noi in radio. Non vi anticipiamo nulla, quindi parto subito con il ricordare i nostri canali. Allora, ci potete scrivere alla chat Telegram scrivendo chiocciola radio zam trattino basso chat, quindi scriveteci tutti i vostri commenti, osservazioni, siate carini e gentili con noi per favore. E potete anche seguirci sulla pagina Facebook di Radio ZAM, sul canale Instagram della radio oggi, e poi oggi. Vai Tecla, oggi è uscita la pagina Instagram, signori. Ma di chi? Delle Ribelli. Ah, certo, ecco. Potete cercare le Ribelli e seguirci, fare domande, commentare le storie. E come ci troviamo? Come, cioè, le Ribelli. Le trattino basso, le Ribelli. No, come era Andrea? Era le trattino basso, le Ribelli, trattino basso, zam. Perfetto, devo ancora studiarmi questo ennesimo canale perché sono un po' ritardata. Lo ripetiamo, le trattino basso, Ribelli, trattino basso, zam. Più chiara di così. Va bene, allora vi abbiamo annunciato la puntata di oggi, quindi... Hai dimenticato Facebook. No, l'ho detto. No, non l'hai detto. Sì che l'ho detto, ci sarà la registrazione a testimoniare il fatto che secondo l'ho detto. Me non l'ha detto. L'ho detto. Ma ci siamo dimenticati anche di dire che presenti virtualmente con noi ci sono anche Giulia e Martina in connessione. Esattamente. In connessione Zoom, quindi siamo tutte qui praticamente. Sì, è vero, è molto molto bello. Poi spiegheremo come mai, giusto? Giusto. Ok, quindi ascoltiamo una canzone, così introduciamo anche l'argomento. Noi facciamo un po' di pratica per quello che ascolterete tra pochissimo. E quindi la nostra bravissima, meravigliosa, fantastica Lady J. Ciao a tutti! Allora, ci annuncerà la canzone. Perfetto, che non è ancora messo in lista, brava. È La Rage di Kenny Arcanà. La Rage.

I'm Rachel Robbins, and tonight's news, we'll talk about hate speech. Prehistoric animal, hairy beast, a bloody ape, I bite. Came out the cave white, the Canaanite, I take your wife and lay the pipe. And if I ain't offend you, I ain't probably say it right. I'm like Big L in heaven with the Mac 11, raping Christ. I make atheists beg to be forgiven and listen to Christians. I get 5%ers and white supremacists switching positions. I put the fear of God in Christopher Hitchens. Put feminist bitches in kitchens and make vegans live off of chicken and chitlins. Got it. Redhead kingpin pumping hottie hobby. If she got a sloppy body, get my bitch some birth control from Hobby Lobby. I'm a fat American, I call football soccer. I give a weakling a wedgie and shove a nerd in his locker. I discipline these obscene teens, I beat them with belts. I smack you with my hard cock on your forehead and leave welts. It ain't hate, folks, take notes. I make great jokes with no apologies or fake quotes and no scapegoats. Hate speech. Of the brave, we all run free. Are we just a wet vagina hole? Of a country, country. Say it, country. Don't say this, don't say that. It's hateful. Don't say this, don't say that. It's hateful. Country. Wait, that's the C word. I burn flags, I grab my dick during national anthems. I fat shame a fat kid and blame his fat fuck parents. I shame sluts for being sluts, I use the word retard. I teach this wet vagina hole of a nation to be hard. Tell my psychologist I'm dropping Scientologist knowledge while flying on a cosmic rocket ship. Not into politics, I'm shoving cock in college kids until they vomit jizz. Impersonate a cop and shove my cop Glock in your esophagus. And then I stop and frisk every white European colonist and stomp an Amish bitch. I'm spitting visions Nostradamus missed. I take a room full of ballerinas and I teach them how to juggy. I tell a chubby girl she's fat and tell a ugly girl she ugly. I'm overseas spreading STDs to OPPs. I get Mahatma Gandhi robbing old ladies for their groceries. I get Muslims quoting my gross poetry of mostly sleaze and get the Pope shoving rosary beads in your ovaries. I barely ever put my dick away. Hit a chick a day. I make my gay friends eat a chicken sandwich at Chick-fil-A. Forrest gunplay. I put the RA in the NRA. Losing fans and being hated, that's a regular day. Hate it's the speech. Home of the brave where we all run free. Are we just a wet vagina hole of a country? Country. Say it. Country. Don't say this, don't say that. It's hateful. Don't say this, don't say that. Wear fur coats while doing experiments, animal testing. I have holy water for saliva, I give your vaginal a blessing. I leave you more confused than a half black Klan member, transgender with a bad temper that was beaten as a kid with an antenna. Call me misogynist. I met a fan and she stopped a copper flick. She was a gothic chick. I took her home, she started gobbling dick. She stripped and took a topless pic. I put on a boxing flick. I started slobbing a clit and fucked it to the Paula album by Robin Thicke. Let the youth fight their own battles and deal with their own bullies. Let the obstacles give them strength. Instead of raising them as pussies, I smack society nerds with adjectives and adverbs. You wanna ban words that you think are bad words, that's bad words. It's the home of the brave where we all run free. Are we just a wet vagina hole of a country? Country. Say it. Country. Don't say this, don't say that. It's hateful. Don't say this, don't say that. It's hateful. I don't care. The Rugged Man should be censored, not just the song, the whole person. I wish he would die a slow, painful death. No, you know what? He's living his death on Earth right now. He's in hell. This man should be in hell. He's horrible. He is financially ruined. He's emotionally ruined. Someone should reach down his neck and grab his dick and pull it up through his eyeball. He should be killed. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma f*** me up a... Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth, they had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy? Jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off the bed and get my swag on. I look in the mirror, say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up off the bed and get my swag on. I look in the mirror, say, what's up? What's up, what's up, what's up? E rieccoci qui. C'è stato questo stacco musicale un po' più lungo del solito, perché comunque meritano le canzoni di Lady J, e quindi è anche giusto apprezzarle nel modo migliore. Allora, sicuramente vi chiederete come mai avete ascoltato quello che avete ascoltato. Ovviamente non mi riferisco alle canzoni che abbiamo appena sentito, ma alla performance a cui avete assistito io qui in radio. E devo dire che qui con me c'è appunto l'ideatrice un po', no, di questa performance. Tecla, allora, da dove nasce? Da dove nasce? In realtà non nasce da me, ma nasce da Martina, che durante la riunione ci ha dato questa bellissima proposta, ovvero: ma perché non leggiamo delle frasi trovate da internet, comunque sui canali, che riguardino l'hate speech? Allora a me è venuta in mente, essendo comunque un'appassionata di teatro, di reading, eccetera, perché non fare questa cosa canone? E quindi voi ragazze avete partecipato alla fine al testo, perché mi avete mandato tutte queste frasi che hanno comunque toccano diverse tematiche. Quindi abbiamo sia la violenza di genere, abbiamo la questione dei migranti, ci sono anche delle frasi sul Silvia Romano, e io ho cercato di toccare un po' tutto, no? Ovviamente questo nell'ottica, cioè non so se sicuramente, anzi, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici avranno anche riconosciuto, no, un po' l'origine di alcune di queste frasi che abbiamo... Spero. Me lo auguro. Ma sì, sicuramente, io ci credo. O magari alcune l'hanno anche provato. O l'hanno anche provato. Troppo. E ci sono quindi delle figure che emergono all'interno del testo che abbiamo letto, che sono un po' delle figure che sono state sotto i riflettori negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, e per motivi apparentemente diversi, ma che hanno un filo conduttore, che è anche un po' il tema della nostra puntata oggi. Che è l'hate speech. Che è le hate speech. Hate speech. Se no si capisce qualcos'altro. Ci hanno detto che dicendolo così velocemente sembra dire late speech. Vero, quindi cerchiamo di pronunciarlo nel migliore dei modi. Io per prima, assolutamente. Ma infatti non ho voluto citare i nomi dei personaggi proprio per creare una sorta di... Ok. Una sorta di energia, no? Per esempio viene citata Greta Thunberg, quella mocciosa svedese, no? E credo si capisca, no, di chi stiamo parlando. Poi con Carola Rackete anche sì. E Silvia Romano. Silvia Romano, sì. Bisogna anche dire che questa puntata è anche un po' nata su un ragionamento che abbiamo fatto proprio sulla vicenda di Silvia Romano, che è tornata in Italia finalmente. Si ritrova additata, giudicata per delle scelte che ha fatto. Quindi una donna libera che ha preso le sue scelte viene di nuovo giudicata e criticata. Direi che è stato un buon punto da cui partire per fare una riflessione e per preparare anche questa puntata. Quindi direi anche che ci possiamo buttare un po' a capofitto sul tema. E abbiamo preparato per voi, o meglio, abbiamo organizzato un intervento con Stefano, un ragazzo che tra breve chiameremo, e Stefano ci parlerà appunto del linguaggio d'odio e lo farà anche da, sicuramente dal suo punto di vista di Andrea, ricorda, è un editore, mannaggia. No? Sì, lui è il cofondatore di una rivista online che conosciamo tutti benissimo, che è il Summarin, e anzi vi invito a seguirlo e ad abbonarmi. E, sì, Stefano ha scritto la sua tesi magistrale sul linguaggio d'odio e quindi ci spiegherà che cosa significa e che appunto che cosa si intende e dove in Italia e nel resto del mondo, perché effettivamente c'è una bella distinzione anche da un punto di vista legislativo. Certo. E quindi sentiamolo. Sì. Manderemo una canzone e poi ci ritroveremo qua con Stefano. Ok, allora ragazze, chi di voi vuole avere l'onore di annunciare la canzone? Vabbè, ci provo, avrò un secondo. Ok, ci siamo. Yeah, in inglese. Kelly's I Hate You So Much Right Now. Di Kelly's. Di Kelly's. Valentine's Day, you would just want to say, babe, I love you, yo, he's babe, lying. I swear, held you when you were sick, even the whole time I think to myself, this isn't fair. What is this I see? No. Surprise, look, I found her red coat and your bitch caught out there. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Oh, I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Oh, I hate you so much right now. So sick of your games. I'll set your truck to flames and watch it blow up on me. How you gonna see it now? So far from sincere. I love you. Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is you been caught. Yo, yo, come on. Yo, yo, yo, yo, yo, come on. Yo, yo, yo, yo. I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. She's so raunchy, so vulgar. Not me. Why the hell her look? She dresses. Look at her. A mess. What do you see? I don't know. It's not all about cash. Hell no. Nor how much you flash. How I dress is a reflection of me. What is this I see? You don't come home to me. Well, you don't come home to me. Can't deal, can't bear. Told you I you won't. You keep telling me lies. But to your surprise, I got something for y'all. Since you're caught out there, I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Bene, la canzone è finita, quindi adesso possiamo entrare nel merito della puntata. Stiamo chiamando Stefano. Risponderà? Non risponderà? Eccolo. Pronto? Pronto! Stefano. Ciao Stefano! Sono io. Ciao. Ciao Stefano, benvenuto su Le Ribelli. Benvenuto. Grazie, ciao a tutte. Oggi sarai una ribelle insieme a noi. Un ribelle. Un ribelle. Sono ribelle. Grazie mille di avermi invitato. Sì, grazie a te invece. Andrea ci ha parlato così bene di te che non potevamo non coinvolgerti in questa puntata. E quindi adesso direi che lascio ad Andrea un po' la presentazione e le domande. Niente Stefano, io ti interrogherò un po'. Per far capire insomma un po' che cosa si intende appunto per l'hate speech e insomma tutta la legge a riguardo, e quindi direi ho dei grossi problemi col microfono, ragazzi. E, comunque direi che partiamo con la prima domanda, che è: che cosa si intende con hate speech e come mai sussiste una gran confusione legata al suo significato? Ce lo puoi spiegare? Sì, ci posso provare, perché in realtà una definizione chiara e univoca di hate speech, o discorso d'odio, se vogliamo tradurlo abbastanza paro paro in italiano, non esiste. Io mi sono occupato di questa cosa, di questo argomento, nella mia tesi. E ne ho elencato un po', quella che ho trovato più calzante è quella di John Knockleby, che è un professore di legge dell'Università di Los Angeles, secondo cui il discorso d'odio è qualsiasi comunicazione che denigra un gruppo in base a caratteristiche come razza, colore della pelle, appartenenza etnica, orientamento sessuale. Il problema è che questa è la definizione di Knockleby, poi quella che è effettivamente riconosciuta dalle autorità, ad esempio, che potrebbero essere chiamate a regolare e magari anche a mettere un freno a un fenomeno che stiamo vedendo essere molto pericoloso, è un'altra cosa. Diciamo che appunto se è piuttosto immediato riconoscere quando qualcuno sta dicendo qualcosa di razzista in vario modo verso qualcuno, è meno immediato capire di preciso la tipologia di discorso d'odio di cui sta facendo uso e riguardarsi di conseguenza e magari anche provare a farlo smettere, diciamo così. Ok, ma Quindi, cioè, ci sono più definizioni di linguaggio d'odio? Diciamo che sì. Secondo me può essere utile parlare di quello che è poi riconosciuto dai governi come quello italiano, perché ovviamente noi adesso stiamo parlando di discorso d'odio, però il discorso d'odio non è un reato. È un reato invece l'incitamento all'odio, un reato, o meglio, di specie, questi termini molto pomposi. Io non sono un giurista, ovviamente, quindi mi limito a riferire. In Italia non si può incitare all'odio verso qualcuno o incitare alla violenza su basi etniche, ecco, diciamo così, etniche o religiose o di genere anche, razziali, tutte queste cose qua, esatto. E questo nell'ambito però della legge Mancino, appunto, la famosa legge Mancino, di cui poi magari parleremo anche un po' meglio, premesso che io appunto non sono un... No, infatti una domanda che volevo proprio farti era, la legge Mancino risale, se non erro, al 1993. Sì, e, esatto. Beh, siamo nel 2020, insomma, alla nostra età. E quindi la mia domanda è l'unica legge che è stata fatta e che cosa appunto considera come punibile, insomma? Allora, diciamo che la legge Mancino è stata fatta soprattutto, da quello che ho potuto vedere io nei miei studi non approfonditissimi a livello giuridico, come dicevo, nell'ottica del contrasto al neofascismo, ecco, mettiamolo così. E quindi è una legge che va soprattutto nell'ottica di limitare la risorgenza di associazioni neofasciste e evitare che un certo tipo di discorso entri davvero a far parte dell'armamentario retorico e ideologico di determinate associazioni. Tanto per dire, Forza Nuova, adesso mi pare che tra l'altro si stia anche un po' sciogliendo, per fortuna, col partito, questa è una bella notizia, però ha nel programma, forse se esiste ancora, la rimozione della legge Mancino dal codice penale italiano, o nel codice civile, non so dove sia adesso, scusatemi. La Lega, mi sembra che nel 2014, se non sbaglio, aveva lanciato l'idea di indire un referendum per abolirla. Il vecchio ministro per la famiglia, Fontana, il vampiro della regione, vecchio ministro omofobo, aveva detto che sarebbe stata una legge da abolire. Diciamo che non va bene a nessuno come legge, perché è una... diciamo che limita un po' il prostrare di chi è fascista, ma non protegge, ad esempio, in modo specifico, quantomeno, molte categorie dall'essere, diciamo, prese obiettivo di discorso d'odio. La legge Mancino, appunto, è una legge che punisce l'incitamento all'odio, quindi se vostra zia al pranzo di Natale dice che secondo lei una certa minoranza etnica è tutta uguale, ma sta invitando ad andare e a organizzare un pogrom, non è punibile, ecco, mettiamola così, da questa legge. Dicevamo anche che non protegge molte minoranze che invece andrebbero protette, una su tutte, la minoranza LGBTQ. C'è tra l'altro un disegno di legge che però è impantanato da anni, vari rimpalli parlamentari, perché trova molti ostacoli in molte forze politiche, soprattutto di destra, ma anche non così di destra, che vogliono difendere la libertà parola, ecco, che poi, come vediamo, qualcuno è sincero, ma la maggior parte delle volte è molto un paravento per lì. Per poter dire le cose razziste che si vogliono, ecco, diciamola così. E quindi siamo un po' con questo strumento insufficiente che non accontenta nessuno, però forse è meglio che niente, ecco, diciamola così. Ma Stefano, scusami se adesso entro così a capofitto, volevo farti anch'io una domanda che mi è venuta adesso in mente, ma secondo te c'è anche una questione di riproduzione sociale quando appunto si parla della difficoltà di riconoscere il linguaggio d'odio all'interno di un ordinamento giuridico e quindi penalmente perseguibile. Una questione di riproduzione sociale? Sì, se consideriamo che esiste un potere, no, che agisce su tutte quante e tutti quanti, che ordina i generi in determinato modo, quindi in gerarchie, ordina, crea e ordina delle razze, delle etnie, che anche quelle ordina in maniera gerarchica, e tanti altri esempi, in questo senso è come se venisse legittimato da questo stesso potere il discorso d'odio. Sì, diciamo di sì. Diciamo che secondo me, ma questa è una mia opinione di privato qualunque, mm-hmm. il razzismo è funzionale alla struttura di potere della società, come penso sia un'opinione che condividete tutto sommato anche voi, se siamo qua a parlare di questa cosa. Ad esempio c'è una cosa molto interessante che mi è venuta in mente parlando di questa cosa, che è quella dell'ICERD, che è un trattato internazionale firmato nel 1975 che doveva, diciamo, limitare la diffusione del discorso d'odio in tutto il mondo. Ed è poi la cosa sulla quale si è basata la stesura della legge Mancino da parte del governo italiano. L'ICERD è stato approvato dall'ONU nel 1965, mi pare, se non sbaglio, ma c'è stato un conflitto interno, diciamo, nei momenti dell'approvazione, visto che l'Unione Sovietica e la Polonia avevano presentato un piano differente rispetto a quello che poi è stato approvato, che invece ha abbastanza i difetti della legge Mancino, ovvero colpisce solo l'incitamento all'odio e è un po' fumoso, ecco. L'Unione Sovietica e la Polonia avevano proposto di fare qualcosa di più attivo per bandire tutte le associazioni che facessero uso di discorso razzista, eccetera. E poi invece gli Stati Uniti e il Regno Unito soprattutto si erano opposti e avevano edulcorato il provvedimento. Quindi sì, diciamo che poi i paesi che hanno più nella storia brigato per mantenere strette le briglie del razzismo sono quelli che alla fine potremmo immaginarci, come appunto gli Stati Uniti. E in Italia questo problema, quando si è firmata questa convenzione, ovvero quindi ormai praticamente 50 anni fa, non c'era, o c'era in modo molto diverso, perché era forse chiamato ad affrontare i retaggi del passato coloniale, però alla fine il problema è emerso anche da noi con particolare forza negli ultimi due decenni, ecco. E anche qua abbiamo visto che ci sono determinate consorterie di potere e, possiamo dire, costruzioni sociali che hanno interesse al fatto che, per dire, i braccianti ricevano salari da fame per poter mettere su questo piatto i pomodori a un prezzo che poi è accettabile per i consumatori e va tutto nelle tasche dei padroni. Non so se sono stato... Sì, no, che c'è stato uno sguardo di... Cioè, ci siamo fatti io la domanda, ciao, io e Andrea ci siamo guardati un attimo e cercavamo di leggerci nella mente, ma... Per capire in realtà se spezzare un attimo o andare... Sì, Stefano, se ti va, ascoltiamo una canzone, così facciamo una breve pausa. Pensiamo un attimo, chiediamo se qualcuno ha delle domande e poi ritorniamo da te, se sei d'accordo. Certo. Va bene? Certo, perché voi immagino vi vediate, io però non vi vedo, sono al telefono. No, no. È il bello della diretta. Sì. Va bene? A dopo. Ok, allora. A dopo. Ok, allora, per questa pausetta, Tecla, vuoi annunciare te? Sono l'annunciatrice oggi, sì. Vai. E non solo. certo. Allora, abbiamo Good as Hell di Lizzo. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. Wow, che canzone! Wow. Ok, allora Stefano, sei ancora con noi? Sì, sì, sono qui. Eccoti. Eccoti. Ciao. La canzone non l'ho sentita però purtroppo, perché ero perso. Vabbè. Non hai ballato con noi. Non ho ballato. No. Ci sarà il podcast, potrei ascoltare la puntata e sentirei questa canzone. Avrei sentito i nostri. L'abbiamo fregato. Ti abbiamo incastrato proprio. Stefano, senti, a me sono venute in mente un altro paio di domandine. Allora, la prima che è legata appunto a, sempre alle legge Mancino, e anche un po' in realtà legata anche al liceo, al discorso che hai fatto, perché ho una perplessità, nel senso che si parla sempre di hate speech, ma non c'è mai, non viene mai considerata la tematica ovviamente del linguaggio d'odio legato alla sessualità e al genere, che negli ultimi anni, anche secondo diverse inchieste, stanno aumentando sempre di più. E, cosa ne pensi a riguardo? Sì, allora io devo dire che spulciando internet per fare la mia tesi, perché la mia tesi ha avuto un grande lavoro di spulciamento dei peggiori, come potete immaginare, siti, blog, pagine Facebook che esistono sulla faccia dell'internet italiano, ho trovato molto discorso d'odio femminile. È magari in forme diverse rispetto a quello, possiamo dire, che ci viene in mente per lo sfondo razzista, però è molto diffuso. Anche qua poi discorso d'odio è un termine che può voler dire tutto e niente. Difficilmente si troverà incitamento alla violenza per questioni strettamente di genere, cioè nessuno eviterà a fare un pogrom contro le donne, anche se purtroppo è successo anche questo in altri paesi. Però un sessismo strisciante e reso qualche volta esplicito e denigratorio, che immagino potreste anche raccontare molto meglio di me, avendolo vissuto purtroppo immagino in prima persona, questo sì, l'ho trovato molto. La legge Mancino ovviamente già non riesce a essere abbastanza incisiva su minoranze ben definite e diciamo evidentemente bersaglio di attacchi. Per le donne... No, quindi stai dicendo che la legge Mancino non considera una gran fetta di questa minoranza, chiamiamola così, che adesso tanto minoranza non è effettivamente, esatto. Perché stiamo entrando in un periodo in cui, cioè, è allucinante, basta pensare che solo nel 2016 negli Stati Uniti sia uscita una canzone rap contro l'educazione sessuale e insomma per non creare discriminazioni, secondo me, insomma, visto che siamo nel 2020, ripeto, è abbastanza agghiacciante, secondo me. E però sì. Legata a questo, mi domandavo, quindi, cioè, qual è la difficoltà nel riconoscere quando c'è un linguaggio d'odio o meno? O meglio, se tu parli nella tesi, per esempio, che ho letto prima di intervistarti, parli di discorso esplicito e implicito, e secondo me è molto curioso parlare di questo, ovvero capire effettivamente dove sta il problema di riconoscere quando c'è un linguaggio d'odio o meno. Sì, allora diciamo che quando ho iniziato ad affrontare la materia ho notato una grande povertà lessicale, ecco, mettiamola così, perché tante cose diverse venivano raggruppate sotto l'unico termine più o meno variabile, discorso d'odio, dicendo in questo caso viene notato in questo modo, in quell'altro caso da quell'altro autore viene notato dell'altro modo. E poi alla fine il risultato è che non si riesce mai a mettersi d'accordo e non si riesce mai a fare niente di concreto. Secondo me è utile iniziare a provare a distinguere tra almeno tra due tipi di discorso d'odio, che io ho chiamato discorso d'odio implicito ed esplicito. Ho chiamato poi, chiaramente, i miei termini sono opinabili, qualcuno con più qualificazioni di me potrà venirmeli a sindacare. Secondo me il discorso d'odio esplicito potrebbe essere quello che già oggi vediamo come incitamento all'odio e quindi punito dalla legge Mancino. Il discorso d'odio implicito invece è tutto quello che vedete su Facebook che vi sembra razzista, sessista, denigratorio in qualsiasi modo verso qualcuno su base di basi etniche o di genere, eccetera, che però non è punibile in quanto non implica una minaccia di violenza immediata. Ottimo esempio sono tutti i commenti sotto a qualsiasi post riguardante Silvio Romano che non siano appunto minacce di violenza, e in quel caso purtroppo ce ne siano state. Secondo me fare questo è utile perché permette quantomeno di chiarire un po' il campo, perché va bene, non tutto in effetti può essere sanzionabile poi dalla legge, cioè, non sto chiedendo che debba arrivare la postale sotto a tutte le persone che commentano dicendo sì, sono tutta brava gente che viene qua a queste risorse su Facebook, però almeno capire di cosa si sta parlando. Quindi secondo me è utile iniziare a fare questa distinzione. Poi per il linguaggio d'odio rivolto verso le donne il tema è ancora più complesso, perché ad esempio dire che le donne non sanno parcheggiare è un discorso denigratorio? Sì, senza dubbio secondo me, però è forse così connaturato alla società patriarcale in cui viviamo che è molto difficile anche pensare di impostare senza dubbio un discorso legislativo. Forse bisognerebbe partire proprio da come ho cercato di fare io. Sì, ma banalmente anche solo capire di cosa sta parlando, perché per fare un discorso educativo bisogna almeno avere le idee un po' chiare. Invece, anche per il fatto che ovviamente poi abbiamo avuto a che fare in così breve tempo con così tanti mezzi di comunicazione diversi, c'è un po' di diciamo di capelli da pettinare, ecco. Sì, tra l'altro mi viene da aggiungere una cosa. Nel senso, io per un esame di magistrale mi sono un po' imbattuta anch'io in questo argomento del discorso d'odio. E quello che per un esame ho un po' studiato è stato proprio il fatto che, cioè che mi ha colpito di più, intendo dire, è stato il fatto che nel discorso d'odio c'è proprio anche questa intenzione, specialmente quando si tratta di quello che tu hai chiamato il discorso d'odio implicito, nel voler subordinare una persona o una categoria di persone rispetto a un'altra, no? E credo che sia anche questa la difficoltà nel riconoscere a livello giuridico, cioè credo che sia questa la difficoltà nel poter perseguire giuridicamente questo tipo di discorso d'odio. E, tra l'altro, secondo me, un'altra cosa che mi viene in mente è proprio il fatto che, secondo me, questo discorso si scontra molto anche con la fantomatica libertà di parola che tanto spesso viene così spunta fuori senza che neanche si sappia esattamente che cosa significa e viene un po' manipolata. Sì, diciamo che appunto, ne parlavamo anche prima, è un po' un... spesso un paravento, però è anche vero che è qualcosa che esiste alla fine, cioè ripeto, nessuno vorrebbe vedersi arrivare la postale a casa perché una volta su Facebook magari la sbronza ha fatto un commento poco carino qualcuno, posto che noi probabilmente non lo faremmo. Però diciamo che bisogna proprio iniziare con un'operazione di presa di coscienza, ecco, mettiamola così. Ed è senz'altro vero che c'è molta volontà di tenere le cose al proprio posto, tenere le persone al proprio posto e fare che le cose continuino ad andare come ora. Ma... secondo me il discorso d'odio è una cosa... Prego, vai. No, scusami, che volevo chiederti, cioè, secondo te, nel momento in cui la libertà di parola ha l'obiettivo di, come dicevo prima, sottomettere, creare un rapporto di subordinazione, in quel momento stai togliendo la libertà di parola all'altra persona per sottrarsi a questa subordinazione a cui la stai costringendo e sottomettendo. Quindi, secondo me, di libertà di parola c'è poco, non so come dire. Sì, anche perché la libertà di parola già oggi non è totale, cioè nessuno sta dicendo che dovremmo andare a intaccare qualcosa che è sacro. Se tu vai a dire a qualcuno che è un truffatore, un ladro, in realtà non lo è, quello ti diffama, la tua libertà, cioè ti fa causa per diffamazione, e la tua libertà di parola non vale molto in tribunale. Quindi c'è già la consapevolezza che le parole possono essere usate come un'arma. E secondo me bisogna arrivare alla consapevolezza più diffusa che il discorso d'odio è anche e soprattutto un'arma. È sia l'espressione di un sentimento, sia un mezzo per rinfocolare un'appartenenza a un gruppo, come può essere un'etnia nella visione di qualcuno, o una categoria sociale che si sente svantaggiata, o gli amici dei padroni, per vederla come magari posso vederla io. E questa è una cosa che secondo me invece non è molto. Beh, mi viene da aggiungere. Quindi ha fatto bene a farlo notare. Inoltre, che crea e alimenta il pregiudizio, nel senso che alla fine il linguaggio d'odio implicito è effettivamente un mezzo educativo indiretto. Sì, fondamentalmente, e di conseguenza, infatti, sono secoli che noi donne non sappiamo guidare. O se porti la gonna un pochino più corta, sei una zoccola, o il frocio è un frocio di merda, cioè proprio così, e quindi non diventa più una questione di. È una privazione di libertà, comunque, questa. E secondo me anche, cioè, ci sono tutti questi tre fattori che collimano nel medesimo punto e vanno a creare chiaramente un disastro che poi noi andiamo a vedere quotidianamente. Sì, potrebbe dire la società. Sì, anche perché mi viene in mente dire sempre a proposito del discorso d'odio implicito, adesso l'abbiamo nominato così, a me Beh, piace, secondo me piace, è cognato rappresentativo. Ufficiale. C'è anche da dire che il modo in cui agisce agisce in questo modo perché riprende delle, tra virgolette, verità assolute, tante virgolette naturali, cioè che così vengono percepite, come diceva Andrea adesso, le donne non sanno guidare, le donne sono delle troie se vanno a letto con di più persone, quindi in realtà stanno semplicemente vivendo la propria libertà sessuale, appunto reiterino tutti questi sistemi di oppressione, questi dispositivi, chiamiamoli anche così, che alla fine controllano. E niente, volevo dire questa cosa, ci tenevo un sacco. Sì, sono d'accordo, tra l'altro. Ok. Bene, direi che siamo arrivati a un ottimo punto, questo argomento l'abbiamo un po' spulciato al meglio delle nostre possibilità e capacità. Stefano, noi ti ringraziamo tantissimo perché è stato davvero un ottimo contributo e spero che anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici possa essere di stimolo. Ovviamente in qualsiasi caso chi ci ascolta può scriverci. E quindi niente, ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio gigante. Super abbraccio, Stefano. In rete. Sei entrato ufficialmente nella rubrica Le Ribelli, quindi potrai essere bene. Sei una ribelle anche tu. Attento. Ribelle. E questo lo ero già prima anche. Ah. Così ci grazie sono. Mille a voi per l'opportunità e per il pensiero. Ecco, mettiamola così. Grazie mille davvero. Grazie, figurati. Stefano. E ricordo di nuovo di abbonarvi a Hello World, che è la pagina del Summarin. E niente, ciao Stefano. Ciao Stefano, ciao, buonasera. Ragazzi, grazie mille. Ciao. Buona continuazione. Ciao ciao. Wow. Mamma mia, io penso che sarei rimasta qua ancora ore e ore ad approfondire il tema, anche perché appunto mi sono un po' ricordata delle robe che avevo studiato sul tema e quindi mi stavo autofomentando. Sì, ma soprattutto non è che, per esempio, in politica venga utilizzato questo discorso implicito, questo linguaggio implicito? Certamente sì, Andrea, perché sennò non saremmo qui, non avremmo pensato a questa puntata. Come già vi avevamo anche un po' preannunciato a inizio puntata, abbiamo preparato, come avrete sentito, la performance delle ribelli. E si intitola Discorso d'odio. Grazie, potrete tecla. Rivedere sulle nostre pagine, sui nostri canali, quando sarà pubblicata. E, insomma, tutto questo è nato, come avevo anche già annunciato prima, da una riflessione che abbiamo fatto sul discorso di Silvia Romano, e quindi abbiamo voluto capire che cos'è il discorso d'odio, visto che lei è l'ultima grande persona che è stata colpita pesantemente da questa violenza. E quindi ci siamo chieste che cos'è il discorso d'odio e abbiamo voluto approfondirlo. Adesso abbiamo avuto con noi Stefano, che ci ha permesso di capire un po' meglio, e direi che dopo la canzone potremo approfondire la tematica ancora meglio, o meglio, l'affronteremo da un punto di vista diverso. Chiameremo Martina, la nostra compagna e amica, e lei invece ci parlerà da un punto di vista di storica del Medio Oriente, appunto, e dirà la sua. Direi che allora possiamo annunciare una canzone per rilassarci un attimo, perché siamo un po' tese, ma non perché non siamo contente di essere qui, ma perché c'è qualcuno alle prime armi che, esattamente, insomma, io sto parlando un sacco, non ho mai parlato così tanto, ragazze, vi prego, brava. No, assolutamente no. Quindi dai, Andrea, adesso vuoi annunciare tu la canzone? Sì, ci, riesci a venire qua? Arrivo, mi devo spostare, ragazzi. Todrick Hall di Yas. Yas, bitch. You know who you are. Yo, well, it was real cute when I met you. It was everything real sweet when you gave me that promise ring. Then I found out you suck. I thought you didn't give no fucks. Wrong, you was giving fucks, alright. Screwing these yucks in the middle of the night. Bitch, you nasty, you trash. So I wrote this hook for that ass. You ain't shit, and your mama ain't shit. And your daddy ain't shit, you ain't shit. And your mama ain't shit. And your daddy ain't shit, you ain't shit. And your mama ain't shit. And your daddy ain't shit, you ain't shit. And your mama ain't shit. And your daddy ain't shit. You ain't shit, shit, shit. You ain't shit, shit, shit. You ain't shit, shit, shit. You ain't shit, shit, shit. You ain't shit. You know who you are, you know who you are. You know who you are, you know who you are. You ain't shit. You know who you are, you know who you are. You know who you are, you know who you are. You ain't shit. Your dog ain't shit, you got a cute nephew, but his uncle a bitch. Whoop, whoop. Somebody call the whole police, and your granny ain't shit, makes you rest in peace. Cause you done pissed off a petty bitch, a petty bitch. Well, I hope you fucking ready, bitch. Get ready, bitch. I'ma hack your computer, I'ma egg your house. I don't do cardio, but I'ma run my mouth. I'ma hide in your bushes so you scared to come out. Let everybody know that you use me for clout. Cause there's a whole lot of miles on that Honda. You done rode every Anaconda in Wakanda. You ain't shit, and your mama ain't shit. And your daddy ain't shit. Damn. You ain't shit. And your mama ain't shit. And your daddy ain't shit. You ain't shit. You ain't shit. And your mama ain't shit. Yep. And your daddy ain't shit. Uh-uh. You ain't shit. You ain't shit. And your mama ain't shit. And your daddy ain't shit. You ain't shit. Shit, shit. You ain't shit. Shit, shit. You ain't shit. Shit, shit. You ain't shit. Shit, shit. You ain't shit. You know who you are. You know who you are. You know who you are, you know who you are. You ain't shit. You know who you are, you know who you are. You know who you are, you know who you are. motherfucker. You ain't shit. I ain't the kind of guy that you wanna fuck with. Oh, you ain't shit. And you got a little dick. Yeah! You bitch ass hoe, it's time for a hoe down. I said to you. Rieccoci qui, allora, sono le 19.32 e giusto perché il radio si usa, non ho mai capito perché, però lo facciamo, è divertente. E, quindi... chi è in macchina ad ascoltare la radio magari non può guardare sono l'orologio. Sono le 19.33 e tutto va bene. Esattamente. Allora, stiamo cercando di chiamare Martina. Vediamo se risponde perché non l'abbiamo avvisata. Cioè sa che deve fare l'intervento, ma ci siamo dimenticate. Ops. No, lo sa, lo sa. No, certo che lo sa. Vedi che lo so. Sorpresa! Ciao! Ciao! Ciao Marti, come stai? Bene, bene, voi? Bene, io sono accaldatissima, emozionata e niente. Non dirlo a noi, emozionata tu. L'emozione è papabile. Io sono abbastanza calmata, mi sento più rilassata. Ah, meno male. Allora Martina, noi ti chiamiamo per un motivo in particolare. Sì, direi sì. Allora... questa puntata, come anche tu sai bene, visto che sei una ribelle come tutte noi, è nata un po' da dall'esigenza di parlare della vicenda di Silvia Romano e declinandola nel discorso d'odio o viceversa, dipende dai punti di vista. E quindi niente, cosa ci vuoi dire? Ma appunto io inizierei un po' dalla vicenda e poi ampliare un po' il discorso, chiaramente. Allora appunto, non so se avete detto qualcosa già su Silvia Romano. Qualcosina, o nulla. Qualcosina. Poco e... Sì. Ma letto, okay. Letto in radio, intendi? Sì. Ah ok, sì abbiamo... Nel decalogo, nel canone, c'erano dei pezzi tratti da alcuni articoli scritti contro Silvia Romano. Quindi... Sì. Ok. Tu hai scritto... Allora... tesi, giusto? Sull'islamofobia, esatto. Sì. E allora, vabbè, iniziamo appunto... Vabbè, Silvia Romano è appunto stata liberata dopo 18 mesi di prigionia. E da quel momento in poi diciamo che la macchina maschilista mediatica si è messa in azione e per Silvia diciamo si intrecciano vari argomenti. Prima di tutto è l'argomento di genere, nel senso è una giovane donna il cui corpo e le cui scelte possono essere offese, insultate, giudicate e messe in piazza per un pubblico dibattito. E poche persone ricordano che fu già insultata quando venne rapita. Con la liberazione è ripartita poi la gara all'offesa. E di nuovo le sue scelte, il suo corpo sono diventati oggetti di dibattito e contestazione. Il secondo punto è chiaramente la sua conversione all'Islam, che è un atto considerato gravissimo. Questo perché Silvia ha fatto tutto ciò che la narrazione maschilista italica non si sarebbe mai aspettata. È apparsa serena, sorridente, non ha pianto, ma ha dichiarato la sua forza a parole nei gesti tranquilli con i quali si è rivolta alla stampa. Ha ringraziato, non ha proferito una sola parola d'odio o di risentimento. La colpa di Silvia e di molte donne, di tutte le donne, è di essere una donna libera, che non rispecchia l'idea di sesso debole che ancora permea la nostra società e secondo la cui visione della nostra emancipazione non solo non è prevista, ma non è tollerata. E da qui direi il discorso, poi l'altro discorso appunto è il velo, che è considerato un grosso problema, esatto, in Italia. Era quello su cui... Scusami. Sì, sì, esatto, perché diciamo che quando in Occidente si pensa all'Islam, l'immagine che tendenzialmente viene utilizzata e riprodotta è quella di una donna velata, e il velo quindi è diventato un simbolo della di questa religione, ha finito anche per essere associato a una pluralità di culture e di paesi che tra l'altro sono molto diversi tra di loro. Ma la radice di questo problema chiaramente viene dall'esperienza e dal passato colonialista. E quindi volevo infatti leggervi degli studi che sono stati fatti proprio sul velo durante il colonialismo. Certo. Perché negli studi femministi e postcoloniali è stato più volte messo in evidenza come l'orientalistica e la propaganda coloniale abbiano sistematicamente operato un processo di femminilizzazione dell'Oriente, scrivendo la narrazione di quest'ultimo in quella delle sue donne, ritratte come oppresse e arretrate e conseguentemente da salvare, da far progredire, si è trovata una delle più forti giustificazioni alla missione colonizzatrice agli civilizzatrici dell'Occidente. Svelare, salvare e modernizzare le donne orientali ha significato in ultima istanza svelare, salvare e modernizzare l'Oriente stesso, affermando al contempo la supremazia culturale, oltre che politica ed economica dell'Occidente. Lo stereotipo dell'oppressione femminile nella società colonizzate o in quelle situate al di fuori dell'Occidente civilizzato è stata una delle più potenti giustificazioni morali della pratica coloniale, parallelamente del rafforzamento dell'idea della superiorità della cultura occidentale rispetto alle altre. E quindi è questo un po', diciamo, secondo me, il punto principale, cioè da cui bisogna partire per comprendere poi l'islamofobia o comunque tutte le forme di pregiudizi e stereotipi nei confronti dell'Islam. Certo. E quindi se ci dovessi chiedere cos'è l'islamofobia, tu cosa mi risponderesti? Sono una serie di pregiudizi e di razzismo nei confronti dell'Islam come religione, poi diciamo che sono una forma di razzismo che non prevede appunto l'integrazione secondo appunto le persone che sono contro l'Islam, non si prevede l'integrazione di queste persone all'interno della società occidentale, sia anche una forma di sterminio perché devono essere cancellati. Voglio dire, la propaganda contro l'Islam in Italia, che è quella mossa principalmente poi dalla Lega, è diciamo di questa natura, devono essere cancellati, sterminati, e non è neanche solo un problema di integrazione quel punto. Ma infatti, soprattutto dopo diciamo l'11 settembre, il velo per esempio è diventato l'emblema per eccellenza di quello dello scontro tra Oriente e Occidente. Certo, scusami se ti interrompo, ma hai toccato un punto focus. Cioè l'11 settembre è stato un momento storico di grande cambiamento. Esatto, proprio questo argomento. Sì, infatti una delle giustificazioni utilizzate per l'intervento occidentale in Afghanistan è stato quello di liberare le donne dal burqa. Certo. E diciamo che appunto nella quotidianità del post 11 settembre le donne velate sono generalmente viste in maniera negativa dopo appunto il famoso attentato, creano sospetti e paure, sono considerate una minaccia alla sicurezza e valori secolari e diritti conquistati dalle donne. Le donne velate dopo l'11 settembre del 2001 hanno visto radicalmente aumentare sia negli Stati Uniti che in Europa gli atti di razzismo nei loro confronti, facilmente identificabile perché visibilmente diverse, sono state oggetto di campagne islamofobiche e di atti di violenza che vanno dagli insulti al tentativo di strappare loro il velo di dosso fino alle percosse. Mamma mia. Che e infatti nei mesi successivi per molte di loro anche uscire di casa era diventato motivo di ansia e di preoccupazione, e la situazione divenne così grave, specialmente negli Stati Uniti, che furono organizzazioni musulmane che consigliavano alle donne di adottare condotte di basso profilo ed evitare di indossare il velo in pubblico. E negli Stati Uniti nacque anche una campagna chiamata Scarves for Solidarity, per cui diverse donne, indipendentemente dalla loro fede, indossarono il velo in segno di solidarietà con le musulmane sotto attacco. Questo negli Stati Uniti? Per lo più negli Stati Uniti, questa campagna è nata negli Stati Uniti perché chiaramente lì diciamo che gli attacchi erano più numerosi rispetto all'Europa, però diciamo gli attacchi islamofobi nei confronti delle donne sono registrati in tutta Europa all'indomani dell'11 settembre. Quindi dici che adesso che c'è stato questo fatto di Silvia Romano, potrebbe accadere anche in Italia, potrebbe aumentare l'islamofobia. Non so se sono spiegata bene. Se il discorso che esiste sempre nei periodi posteriori sicuramente a degli attacchi terroristici, questi aumentano perché chiaramente sono, le donne sono più facilmente riconoscibili appunto perché portano il velo e quindi chiaramente sono le vittime preferite, proprio anche perché sono donne, comunque soggetti considerati socialmente più deboli in un certo senso, quindi più facilmente attaccabili. Certo, però siamo, è una, siamo sempre a questo punto alla fine, purtroppo. Sì, no, esatto, chiaramente il discorso è quello, ma infatti anche un altro, secondo me, è una questione importante anche quella del velo in Francia, perché in Francia ci sono due leggi che vietano l'utilizzo del velo. Una del 2004 in cui viene vietato l'utilizzo di qualsiasi simbolo religioso all'interno delle scuole, perché per i sostenitori appunto di questa legge, per salvaguardare i principi della laicità e uguaglianza, mentre chiaramente per gli oppositori di questa legge si tratta di una legge discriminatoria e razzista. E subito dopo l'approvazione, nel 2004, molte studentesse musulmane sono state espulse e molte hanno deciso di studiare direttamente a casa, mettendo quindi anche in discussione un po' il diritto universale, universale ad accedere anche all'istruzione. Sì, mentre... sì. Posso farti una domanda? Sì. Un'altra cosa che secondo me fa specie è che se non, Giulia ci raccontava che nel 98 l'Uzbekistan aveva sospeso insomma, l'utilizzo del velo per le donne per una questione di visibilità, esatto, insomma. Cioè nel senso, sì, per reprimere il dissenso fondamentalmente dell'Occidente. Sì, perché tutto viene sempre fatto in funzione dell'Occidente, chiaramente, ma molte mogli di capi di Stato dei paesi arabi non indossano il velo. In Giordania, per esempio, in Egitto quando c'era Mubarak la moglie non indossava il velo, ma quindi è una pratica in verità molto diffusa, quello di rendersi accettabile agli occhi dell'Occidente in un certo senso, no? Anche questa è chiaramente una conseguenza dell'islamofobia, e quindi reprima un'identità culturale per la paura di una cultura che non riesce a integrarsi o comunque a comprenderla. Sì, ho una cultura che non viene considerata abbastanza civile come, esatto, quella europea. Certo. Sì, ma il discorso è che appunto l'islamofobia nasce, si diffonde in Occidente appunto con l'immigrazione, però è un razzismo che è sempre esistito nel momento in cui c'è il colonialismo fondamentalmente. Fin dall'inizio i primi scritti riguardo il mondo arabo sono scritti razzisti, chiaramente ritraggono gente sul cammello che non rispecchia chiaramente la realtà. E, cioè, sì, noi siamo il cacciatore bianco, non so come dire. Sì, poi c'è anche il discorso per esempio dell'harem che viene descritto come luogo di lussuria quando non è assolutamente così, chiaramente. Quindi nel momento in cui nasce l'orientalistica come, diciamo, come studio, nascono tutti gli stereotipi legati al mondo arabo, semplicemente. Certo. E poi, diciamo, ovvio che in Europa peggiora perché poi sono qua e quindi per gran parte della popolazione questa cosa rimane inaccettabile, perché comunque l'Islam viene vista come una religione violenta e quindi le conseguenze poi sono queste, in cui le donne sono tutte arretrate, cioè il velo viene solo imposto, non c'è scelta, e diciamo che questa poi la visione dominante. Certo. Sì, quindi non è mai una questione di scelta personale, ma è una questione di imposizione. Sì, esatto. Questa è la visione generale, ma non solo, ma anche da parte di alcune componenti del femminismo c'è sempre stata, diciamo che quando si parla di velo si vedono anche tutte le contraddizioni dei vari movimenti, in un certo senso, perché sono molte le donne occidentali che si dichiamano femministe che dicono che appunto il velo è una forma sola di oppressione che non deve essere mai utilizzato. Sì. Ma infatti è anche assurdo questa cosa, perché comunque anche in Italia fino a neanche troppi anni fa il velo si metteva. E quindi, cioè, a proposito di questo, di quello che stavi dicendo, mi viene in mente che si parla proprio quindi anche di femminismo colonialista e bisogna sempre stare attenti al discorso, al linguaggio utilizzato per capire quale effettivamente tra i femminismi è quello che si batte per tutti e tutte quante. No, esatto, anche perché infatti il velo è un oggetto che compare praticamente in tutte le culture del mondo, in momenti storici differenti per motivi diversi, e appunto in Italia è sempre stato utilizzato e in molti posti viene ancora utilizzato, quindi non è lontano da noi. Il problema appunto è il velo islamico, appunto, e appunto il discorso del femminismo, sì, appunto esiste anche un femminismo islamico, voglio dire, che anche forte ed esiste ed è presente, non può essere ignorato. Ma senti Martina, io ti farò una domanda un po' personale magari, così, perché mi è venuta la lampadina al momento. E sì. Come mai ti sei interessata di questo argomento, hai voluto approfondirlo insomma nella tua vita, cosa ti ha spinto un po' a questo interesse? Ottima domanda, ripercorrendo penso che tutto sia nato in verità dall'interesse per la questione palestinese, da lì si è allargata, da lì ho iniziato a studiare poi la cultura araba e l'Islam e la letteratura, però è iniziato sì dalla Palestina, dall'interesse per la Palestina. Ma infatti Marti, tu sei stata anche in Palestina? Sì, sono stata in Palestina l'anno scorso per un mese, esatto, ed è stato molto bello. Sì, no, in effetti gli aneddoti magari li lasciamo a un altro momento. Va bene, sì. È sempre molto ritardato l'audio, devo ancora abituarmi al fatto che tu sei al telefono, io sono in radio, arrivo in ritardo, quindi... È un po'. Sto facendo un po' di difficoltà, ma piano piano ce la farò. E Marti, se hai voglia di parlarci di qualche altra cosa che ci tenevi a cui ci tieni a approfondire, noi ti ascoltiamo. Beh, sì, finisco un attimo anche della certo. Questione della Francia, che esatto. Appunto nel 2011 poi è stata approvata una nuova legge in cui viene vietato di indossare il burqa e il niqab nei luoghi pubblici. Mm-hmm. E in caso di violazione è previsto il pagamento di una multa e l'obbligo di frequentare un corso di cittadinanza. Questa cosa è allucinante. Sì, è imbarazzante. Mm-hmm. Mentre chi obbliga una donna ad indossare il velo rischia fino a un anno di carcere e 30.000 euro di multa. Ma tra l'altro questa diciamo legge che c'è in Francia, la più o meno simile volevano farla anche qua in Italia, se non ricordo male, perché nei luoghi pubblici. Ma è arrivata anche in Parlamento ed è stata promossa da Daniela Santanchè, che ha deciso che il suo compito è svelare tutte le donne musulmane, e aveva anche organizzato degli eventi a Milano all'epoca. E lei, sì, però non è mai stata approvata, perché in Italia c'è la legge che è stata promulgata durante gli anni del terrorismo, in cui c'è il divieto di andare col viso coperto, no? Sì. Quindi possono utilizzare quella volendo, senza farla passare appunto poi per quello che è, cioè una legge discriminatoria e razzista, perché esiste già quella, in cui c'è appunto... Sì, comunque, cioè, allora anche noi siamo tutti perseguibili per il reato di travisamento adesso. Infatti in Francia c'è questa propria ambiguità in questo momento, che è obbligatorio andare in giro coperti con la mascherina, però c'è la possibilità che se tu vai in giro col burqa al niqab di essere multata. Madonna. Ma incredibile. Sì, è pazzesco. Sì. Comunque, cioè, mi viene da dire che in tutto... Cioè, Tra tutte le cose che abbiamo detto, ci si dimentica sempre che la scelta è libera ed è della donna, e quindi non ci deve essere nessun uomo, nessuna istituzione e neanche altre donne a dire a una donna cosa può e cosa non può fare. E... No. Esatto, e questo poi è il punto anche di tutti questi iter legislativi, che in nessun caso le diverse interessate vengono mai interpellate, ma per esempio le donne musulmane francesi si sono appellate sia alla dichiarazione dei diritti universali dell'uomo dell'ONU sia a quelli sanciti dall'Unione Europea per questa legge, chiaramente, perché tanto non vengono né interpellate ma neanche ascoltate, perché non interessa fondamentalmente, chiaramente, certo. Il punto non è quello, quello che vogliono le donne. La cosa che più mi spiazza è quando queste cose partono dalla scuola, cioè quella che dovrebbe essere ciò che educa la crescita di un adolescente, di un bambino, dove ci si dovrebbe sentire liberi, no? E ci sono questi divieti. Questa è una cosa che mi lascia veramente, anche perché lavorando nell'ambito scolastico, a volte, soprattutto in una scuola dove è multietnica praticamente, e queste cose le vedo, no? E questa cosa sì. Mi lascia veramente spiazzata, è molto brutto quando si agisce sulla scolastica proprio in questi modi. Quindi grazie di aver dato voce a queste leggi. Grazie sì. Martina. È stato un intervento veramente, direi che hai toccato praticamente tutti i punti. Sì, volevo solo consigliare attimo il libro che ho utilizzato io per questo intervento, che è Il velo nell'Islam, si chiama, di Renata Pepicelli, che è molto molto interessante, e poi tratta anche la moda all'interno dell'Islam e poi anche all'interno il velo all'interno del Corano. La moda all'interno dell'Islam, bellissimo. Certo, perché c'è tutta una moda, cioè ci sono varie case di moda, chiaramente, ed è molto importante, esistono, ce ne sono un sacco. Ma quindi allora possiamo anche tutte questi materiali li metteremo sicuramente nelle nostre pagina nuovissima, freschissima, Le Ribelli di Instagram. Instagrammeremo i tuoi materiali, Marti. Sì, va bene, molto volentieri. Cioè, anche solo per lo sforzo di dire questa frase dobbiamo farlo. Instagrammeremo. Ma solo per dire che posteremo le cose su Instagram, cioè gli articoli. Questo è un modo più semplice. Meno arzigogolato. No, ma anche il termine postare su Instagram, insomma, così, un gergo un po' giovanile del postare su Instagram. Anche noi siamo dentro questo mezzo social adesso e sono molto contenta perché pubblicheremo un sacco di contenuti. Bene, così meno tutti male. I nostri ascoltatori potranno trovare non c'è via di il uscita. Materiale. Tecla è molto euforica della pagina Instagram. No, ma perché poi adesso abbiamo un sacco di canali, no? Quindi abbiamo Telegram, abbiamo Facebook, sì, direi che li possiamo ricordare bene, bene, bene, bene tra pochissimo. Così possiamo salutare dignitosissimamente e amorevolmente la nostra amica e compagna Martina, che ci ha dedicato il suo tempo e la sua conoscenza. E magari la prossima volta viene anche qua. Questo è un po' un rimprovero, mi sa, eh? Perché noi ti aspettiamo. Che non hai visto l'espressione della Mercu mentre lo diceva. Ah, la posso immaginare. Dice che ti invita, è un invito. La nostra è una minaccia velata. La Mercu, la nostra bacchettona. Che ci va vuole bene. Marti, ti ringraziamo tantissimo e ci sentiamo prestissimo, tantissimi. Grazie a voi, Marti. Ciao. Grazie Marti. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Mamma mia, sono molto contenta per questi interventi bomba. E, soprattutto perché sono molto stimolanti, cioè stimolano veramente sì. Un sacco di domande, toccano un sacco di argomenti e quindi... Meno male che ci sono i podcast, così se ci perdiamo qualcosa o se vogliamo riprendere delle tematiche possiamo sempre farlo. Quindi a questo punto ricordiamo i nostri canali. Abbiamo il canale Telegram, adesso mi mettete in difficoltà. Allora, il canale Telegram lo trovate scrivendo chiocciola radiozam trattino basso chat. Ed è una chat. Ed è una chat, e non è un canale, mi dice Giulia Mercu. Ma va bene così. Io me li devo ancora scrivere per poterli annunciare. Poi abbiamo Facebook, e ci trovate scrivendo Radio ZAM. E abbiamo anche Instagram, che è Radio Zam Sud. Ho letto il labiale di Mercu. E poi abbiamo appunto la nostra nuovissima pagina, Le Ribelli, che è le trattino basso ribelli trattino basso Zam. Perfetto. Tutti questi, quante volte l'avrò detto? Basta, oggi basta. Allora, con il vostro consenso, io metterei una canzone, così ci rilassiamo un attimo e poi possiamo riprendere. Scriveteci. Have you ever won the mass? Yeah. 1 2 1 2. To the A, to the S, to the K, put the mask on the face just to make it next day. Feds be hawking me, jokers be stalking me. I walk the street and camouflage my identity. My posse in the Brooklyn wear the mask. My crew in the Jersey wear the mask. Pick up kids doing boogie woogie wear the mask. Yeah, everybody wear the mask. Yeah, yeah. I used to work at Burger King, a king taking orders. Punching my clock, now I'm wanted by the manager. Souping me up, saying, you're a good worker. How would you like a quarter raise? Move up to the register. Large in charge, but you gotta be a spy. Come back and tell me who's bagging my fries. Getting high on company time. Hell no, sirree. Wrong MC. Why should I be a spy when you're spying me? And you see what you thought you saw but never seen. You missed the last move. Checkmate, crown me king. Pull my 22, pistol whip them in his face. Hiya, now I'm fired, sober, now I'm wired. Eyes pitch red, but the beat bop my head hit the streets for relief. I bumped into feds, I got kidnapped, they took me to D.C. Had me working underground, building missiles for World War III. M to the A, to the S, to the K, put the mask upon my face just to make it next day. Brothers be gaming, ladies be claiming. I walk the street and camouflage my identity. My posse uptown wear the mask. My crew in the Queens wear the mask. Pick up kids with the Tommy Hill wear the mask. Yeah, everybody wear the mask, but how long will it last? I thought he was the one done, I was stung down by his lips. Taking sips of an Amaretto sour with a twist. Shook my hips to the baseline. This joker grabbed my waistline. Putting pressure on my spine, trying to get elbow to wine. I backed the ball from then I caught him. With 5 fingers to his face. I had to put him in his place. This kid's invaded my space. But then I recognized the smile, but I couldn't place the style. So many fronts in his mouth. I thought he was the golden child. Then it hit me, that's Tariq from off the street around my grind. I haven't seen him since 15 when he got booked for doing scams. I tried to walk away, but he wouldn't let me leave. He ran him quick behind me asking, yo, what happened to my nigga Steve? Steve was like this kid I went with back in grammar school. I chuckled, knucklehead, I seen him yesterday. He's busted, so who you checking for now? Probably some intellectual. I kept the conversation straight, but he kept trying to make it sexual. Then his old lady tried to play me, waved her hands up in my face. Yo, I told her, check your man, cause bitch, you acting out of place. M to the A, to the S, to the K, put the mask on me face just to make it next day. Brothers be front, then they be running. I walk the street and camouflage my identity. My posse in the Bronx wear the mask. My crew on the aisle wear the mask. Stick up kids rolling in the Omni wear the mask. Yeah, everybody wears a mask, but how long will it last? 3 a.m. in the morning, on the boulevard. I'm still at large, engaged with my entourage. Me and Godfather in the 67 Dodge. I stepped out and looked, then post up my guard. Searching for my car that was stolen from Scotland Yard. My first instinct was to check the Chop Shop garage. As I rung the bell, someone tapped me on my back. I turned around and looked, it was a rookie in a mask. He said, I got an itch on my trigger. Don't move, nigga, I'm taking you for murder. See, cops are two faces like two laces on my Reeboks. My knees knock as I step back for a clear shot. Yo, did you shoot him? Nah, kid, I didn't have the balls. That's when I realized I'm bumping too much Biggie Smalls. To the S, to the K, put the mask on your face just to make the next day. Runners be beefing, cops be beefing, brothers be scheming, it should be teaming, jokers be smoking and staying broken, bitches be teasing and money skeezing, niggas be creeping, baby mothers be weeping. I walk the street and camouflage my identity. My posse in the Haiti wear the mask. My crew in Jamaica wear the mask. Stick up kids bumping Fuji La wear the mask. Yeah, everybody wear the mask, but how long will it last? Said, yo, man, we just rolled up there. Shit was ill, man. It was ill. Yo, bullets everywhere, guns, smoke. Jokers falling off their porches, just shooting straight cowboys, man. Straight motherfucking cowboys. Abbiamo ascoltato The Mask dei Fugees. E allora, gli interventi bomba, diciamo che li abbiamo ascoltati. Io ci tenevo a dire anche, cioè a fare qualche precisazione, a dire qualcosina in più, non perché io sia saputa, ma invece ma sì, fai quella che non sì, sa. Fa la... No, no, è che no, no. Fa miei, la modesta. Nei miei studi mi sono un po' imbattuta su un questo po'. Tema. Un po', un po', un po'. Adesso mi odia Gioia. Un pochino. No, scherzo. E niente, no, io ci tenevo a dare una prospettiva di interpretazione sul linguaggio d'odio, o meglio, secondo me, e non secondo me nel senso che ho studiato un po' di cose e permettendo che il linguaggio è un fenomeno sociale, quindi ha un carattere performativo, quindi ha la capacità di trasformare la realtà, bisogna dire che proprio anche all'interno di questo discorso il linguaggio incide e trasforma, e in una prospettiva in cui il mondo, la realtà è una realtà sociale, quindi è costruita da relazioni, anche il linguaggio si inserisce in questa relazione e quindi attraverso la relazione trasforma la realtà. Quindi si può dire che ci si può immaginare dei corpi che interagiscono e quindi dei corpi viventi che agiscono l'uno sull'altro all'interno, come dicevo, di un rapporto sociale. E quindi il carattere performativo del discorso d'odio è proprio questo, attraverso i corpi. Quindi nel momento in cui si dice qualcosa di violento, questa cosa ferisce il corpo, quindi non è semplicemente una parola che vola e svolazza in un etere chissà dove, no, è qualcosa che incide sulla realtà attraverso il corpo, ferendolo, e quindi essendo qualcosa di molto concreto. Quindi non bisogna mai sottovalutare la potenza del linguaggio. E proprio in questo senso ci tenevo anche a riportare con le mie parole anche un po' un discorso che ho studiato della Butler, che è la teorica delle teorie queer, scusate il gioco di parole, e in sostanza anche un po' riprendendo l'intervento di Stefano, che forse mi permette di semplificare le parole che utilizzerò. La Butler riconosce nel discorso d'odio implicito la potenza, la violenza del linguaggio d'odio, proprio perché anche quella più nascosta e più velata. E come anche ho avuto occasione di dire prima, si rifà molto a delle costruzioni sociali, a dei saperi, a dei dispositivi di controllo, come anche che sono anche dispositivi di sapere, quindi dei discorsi che il patriarcato trasmette e quindi ha la possibilità di riprodursi attraverso le persone. Una cosa che a me aveva colpito è il fatto che sicuramente c'è questa difficoltà di perseguire giuridicamente il linguaggio d'odio, E questo secondo Butler per due motivi. Per la questione della riproduzione sociale, quindi esiste un potere, dei meccanismi, dei dispositivi che veicolano i pensieri, anche l'immaginari, e quindi attraverso questi tipi di linguaggio li reiterano e si fortifica. E in secondo luogo c'è anche il discorso della libertà di parola, come appunto abbiamo anche avuto modo di dire prima. Ed è proprio questo il punto, secondo me. Nel momento in cui inizia la tua libertà di parola e finisce quella dell'altra, perché non le permetti di ribattere, di sottrarsi da una situazione di subordinazione che un linguaggio d'odio ti costringe a ricoprire, insomma, lì direi che c'è un problema, e quella non è libertà di parola, ma è violenza e deve essere riconosciuta come violenza. Quindi anche tutte quei commenti, quelle osservazioni che abbiamo potuto anche leggere nella nostra performance, che erano rivolte a Silvia Romano, a Greta Thunberg, e oddio, un vuoto. A Carola Rackete. Anche migranti. E ai migranti, e ovviamente a tutte le altre persone che comunque questa performance non ha potuto rappresentare appieno. C'è da dire che c'è questo dietro. Un modo che potrebbe essere utile, secondo la Butler, per sottrarsi a questa subordinazione forzata è la riappropriazione del linguaggio. O meglio, sovvertire i significati, riappropriarsi delle parole violente per sovvertirle. Quindi, tu mi stai dando della puttana e io sono una puttana. Io voglio vivere liberamente la mia libertà sessuale, se no non sarebbe tale. E non c'entra il tuo giudizio, non lo voglio ascoltare, non mi interessa. Se tu mi definisci tale per questo motivo, allora lo sono. Questo è un po' il discorso. E quindi questo si rivede anche molto nel linguaggio utilizzato dai femminismi contemporanei, ovviamente da alcuni, non da tutti, perché bisogna dire che ce ne sono di diversi e non tutti magari riescono a cogliere tutte le prospettive. Sicuramente io mi riferisco al linguaggio come quello utilizzato della rete internazionale di Non Una di Meno, e lì si sente proprio, si vive questa cosa. E secondo me è molto potente e anche utile per scardinare tutti questi meccanismi. C'è anche da dire, ovviamente. Ma non potrebbe diventare un meccanismo? Ti faccio delle domande. Ok. Cioè, se posso un attimo finire, forse posso anticipare questa domanda. È anche ovvio che cercando di riappropriarsi di queste parole violente, si corre anche il rischio allo stesso tempo di reificare lo stesso un sistema di poteri che comunque veicola quei messaggi, quegli immaginari. Assolutamente c'è il rischio, ma questo dipende anche dalle capacità, non dico delle singole persone, della persona, ma non solo, ma anche dell'attività politica che si fa attorno a questa riappropriazione. Non si deve permettere al patriarcato di riprendersi quelle parole, e questo chiaramente è complicato, ma può funzionare nel momento in cui non si perde il controllo della situazione, forse. Ma tra l'altro mi fai venire in mente che possiamo ricondurre tutto questo effettivamente al movimento femminista anche all'interno dell'arte, del quale parlavamo forse due puntate fa, per il quale appunto le donne si riappropriano di determinate condizioni e di per esempio nell'immaginario femminista, a livello appunto di movimento artistico, loro si riappropriano di un linguaggio e di un non solo verbale ma anche visivo, nel senso che proprio loro riconducono per esempio i ruoli delle donne che hanno avuto nella storia, no? E proprio c'è questa riappropriazione quasi per riuscire appunto a esorcizzare e allo stesso tempo per non permettere più a nessuno di dire chi dovevano essere, come devono parlare, come devono essere chiamate. E certo, perché comunque la narrazione sulla donna è sempre appartenuta all'uomo. se esatto. vogliamo anche pensare a un binarismo di genere, cosa che ovviamente non esiste, ma per far passare il messaggio. E quindi questa riappropriazione si può leggere anche in questo modo, no? Quindi riappropriarsi della propria narrazione, dargli i propri significati, concetti, immaginari e risignificare queste parole, questi linguaggi. Certo, e a proposito di questo, appunto ricollegandomi al discorso del linguaggio e di come questo implicitamente comunque, ripeto, crea il pregiudizio e indica... insomma una visione unilaterale delle tematiche è per esempio Ico Gasparri, mi viene in mente, lui ha fatto una ricerca di 15 anni, lui ha fotografato i cartelloni pubblicitari di Milano e riportando effettivamente testimonianze di tutto il linguaggio che viene utilizzato dalla moda e dalla pubblicità è legato anche all'immagine, e lui denuncia tutto questo sistema proprio perché è estremamente violento ed estremamente educativo. Quindi c'è una educazione alla violenza implicita all'interno di un linguaggio, e a me viene da pensare che sia naturale il fatto che noi abbiamo bisogno di riappropriarci di noi stesse e di appunto allontanarci da questi stereotipi anche linguistici, visivi e quant'altro. Sì, come hai ben detto, alla fine il linguaggio d'odio comunque non è solamente qualcosa di... cioè è sicuramente il primo luogo, perché è sicuramente qualcosa di parlato, ma il linguaggio, si sa, non è solo parlato, quindi si sfondano porte aperte, perché si parla col corpo, si parla con l'arte, si parla con la musica, si parla in tanti modi, con la poesia, esattamente. Quindi quando si parla di linguaggio d'odio, ovviamente è giusto pensare al linguaggio parlato, assolutamente, ma ci sono anche tanti altri aspetti. E mi viene anche da aggiungere che per dare anche meglio un'idea su come immaginarsi il linguaggio d'odio implicito, secondo me si può anche pensare a tutti quelle fatti di cronaca, cioè che sono diventati fatti di cronaca, storie di ragazze, di donne che si sono suicidate perché hanno vissuto body shaming, hanno vissuto anche revenge porn, e queste violenze, che hanno preso forme diverse, di base hanno proprio il linguaggio d'odio, perché circola un video intimo in cui stai facendo sesso con una persona a milioni e miliardi di gente che non conosci, e la tua intimità viene così condivisa senza il tuo consenso, e questo genera, come ben sappiamo, tutto un discorso legato a sei una troia, sei una zoccola, se non volevi che il video circolasse è colpa tua, perché alla fine l'hai fatto, quindi ovvio che queste cose circolano. È proprio questo il problema, che poi diventa il sesso il problema, e quindi cioè, c'è proprio questa tendenza a educare al stai facendo una cosa sbagliata semplicemente perché stai facendo del sesso con una persona con la quale tu pensi di poter cioè della quale pensi di poterti fidare, e poi alla fine no, quindi il problema dove sussiste, sì, nel fatto che fai sesso. Sì, infatti il problema non è il sesso, il fare sesso, ma è ciò che sta attorno al fare sesso, no? Quindi la narrazione del sesso, finché lo fai con il tuo ragazzo, ovviamente, perché si tratta di un contesto di eterosessualità, perché già se fai sesso con una ragazza, o se sei un uomo con un altro ragazzo, con un altro uomo, ovviamente tutto questo cambia, quindi si ragiona in questi termini e porta a queste conseguenze, no? E quindi secondo me è importante anche nel momento in cui si legge su Facebook, sui social, dei commenti di body shaming, di revenge porn e di tanti altri modi con cui si genera violenza, sì, magari come diceva Stefano, non è che deve arrivarti la polizia postale sotto casa, però c'è bisogno di un'educazione. Quindi magari rispondere ai propri amici, per quanto siano amici, rispondergli e dirgli che cosa stanno facendo, cioè le conseguenze che il loro modo di fare, di interagire, di relazionarsi alle persone, cosa può produrre. Non datelo per scontato. Che poi no, Anche poi non ci rendiamo conto, ma mi avete fatto venire in mente veramente un sacco di cose per quanto riguarda appunto l'educativa, gli adolescenti, essendo a contatto con questo mondo tutti i giorni. E spesso mi sento raccontare, perché Gioia, io mi ricordo quando abbiamo un po' parlato di questo argomento del hate speech, mi dicevi che anche il cyberbullismo si può inserire in questo contesto. Certo. Giusto? Ed è assurdo come fra gli adolescenti veramente avvengono questi episodi quotidianamente. Cioè io frequento un sacco di studenti che vengono comunque per il tuo lavoro. Per il mio lavoro. Sì, frequento nel senso per il mio lavoro. Grazie. Certo. E la Tecla, quindi che lavoro fai? Io faccio l'educatrice a scuola, in una scuola superiore. Quindi siamo proprio nel clou dell'adolescenza. E sono state delle confessioni di alcuni ragazzi che mi dicono: a me è successo questo episodio, che questa persona mi ha scritto così, e io mi sono chiuso per una settimana in casa piangendo, perché magari mi hanno ripreso mentre rimango sempre nel segreto ovviamente, però magari stavo facendo una cosa un po' imbarazzante ad una festa, poi il mio video è girato, io mi sono sentito un imbarazzo, e poi cioè, psicologicamente ti turba tantissimo, per quello bisogna cercare di contrastare, difendersi dal linguaggio, come dicevi tu prima, no? Ma perché poi crea delle psicosi incredibili. Crea delle psicosi molto brutte, di chiusura, cioè poi la chiusura che alla fine porta al suicidio, no? Anche negli adolescenti succedono queste cose, ci sono stati molti casi di adolescenti che colpiti da linguaggi d'odio, da questa modalità, che poi si sono ammazzati. E purtroppo quello che mi viene da dire è che poi è una cosa che mi sta molto a cuore, no? Nelle scuole manca questo tipo di educazione, cioè bisognerebbe davvero fare delle lezioni quasi quotidiane su come educare al linguaggio, però secondo me manca un po' nelle scuole, ci dovrebbe essere... Lo diciamo in tutte le puntate delle Ribelli, questa lo cosa diciamo, che manca l'educazione, no, su queste tematiche. Lo diciamo, io credo che continuerò a dirlo, perché certo. È giusto farlo sentire e dire questo punto. Viene proprio dato per scontato e non viene considerato l'importanza di effettivamente educare. Avete ragione. Esatto. Ragazzi, bene a ripeterlo. Abbiamo sempre fatta una certa, no, vabbè, a parte questo che ci sta, è giusto. Ma direi di mandare una canzone in onda, che dite? Ma direi di sì. Va bene, che allora ce la balliamo tutta. Vediamo. Allora, chi è che vuole annunciare questa canzone bomba? Che sono vicina. Tecla. Allora, abbiamo Fat Bottom Girl Remastered dei Queen. Wow! Oh yeah, grande Lady J. Buon ascolto. Take me home tonight. Oh, down beside your Figliola cara, non spaventarti, non siamo venute per agire contro di te o farti del male, ma per consolarti, prese da compassione per il tuo turbamento. Vorremmo toglierti dall'ignoranza che ti acceca tanto da farti dimenticare ciò che conosci con certezza, per credere a qualcosa che sai, vedi e conosci solo per le opinioni altrui. Mia cara, che ne è stato della tua intelligenza? Hai dunque dimenticato che l'oro fino si tempra dalla fornace e che non si altera né cambia le sue caratteristiche, anzi, più lo si lavora, più lo si affina? Non sai che sono le cose migliori ad essere quelle più dibattute e più discusse? Se consideri la questione delle più alte forme della realtà, che sono le idee e la loro sostanza celestiale, pensa a come i più grandi filosofi che tu asconti contro il tuo stesso sesso non siano riusciti a distinguere il falso dal vero, contraddicendosi e criticandosi l'un l'altro. Ti consiglio dunque di volgere a tuo vantaggio i loro scritti, interpretandoli in questo modo, quale che fosse il loro intento, là dove essi biasimano le donne. Così ti dico per concludere, cara amica, che è la tua ingenuità ad averti condotta a questa opinione. Ora torna in te, recupera il tuo buon senso e non turbarti più di simili sciocchezze. Sappi che ogni maldicenza sulle donne ricade su chi le fa e non sulle donne stesse. Questa era Christine de Pizan e lo scrive nell'introduzione della Città delle Dame nel 1405, ragazzi. E con questo vi do molta speranza e vi saluto. Sì, siamo arrivati al momento dei saluti, sono le 20:25. Ciao mamma! Guarda come mi diverto! Direi che siamo state bravissime perché abbiamo iniziato puntuali e finiremo puntuali per la prima volta nella storia delle ribelli. Incredibile! Questa è davvero la fortuna del principiante, vero? Forse! Allora, noi ringraziamo di cuore tutti... E tutte quelle che sono intervenuti stasera, ringraziamo Stefano, ringraziamo Martina, ringraziamo tutte le compagne delle Ribelli e noi qui vi salutiamo, ringraziamo anzi anche chi ci ha ascoltato ovviamente. Ci rivediamo giovedì prossimo alle 18:30. Mi raccomando. Questa volta connettetevi sul link giusto. Quello nuovo. Che comunque pubblicheremo. All'infinito anche sui nostri canali, così che nessuno possa sbagliare. E vogliamo ricordare i nostri canali, Gioia? Va bene! Così impariamo. Ormai li avete imparati a memoria dopo 2 ore di diretta. Allora abbiamo Telegram, chiocciola, radiozam_chat, e qui ci potrete scrivere. Poi abbiamo il canale abbiamo Facebook, ci trovate su Radio ZAM, abbiamo Instagram, Radio Mi Sud ZAM. No. /Ribelli_ZAM. Sì, questo che l'avrei detto. Questa è la pagina della pagina Instagram delle, sì, Ribelli. Poi c'è la pagina Instagram di ZAM, di Radio ZAM. Sì, stavo proprio facendo questo, ZAM, per poi mettere la ciliegina sulla torta e ripetere, va bene, è andata così, va benissimo lo stesso, ci piace. Quindi grazie a tutte e a tutti e vi lasciamo con Bayana di Makerbat.